Good morning everyone. Vuol dire buongiorno a tutti in inglese. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Hamilton transita sul traguardo adesso. Nico Rosberg leggermente più vicino, si è girato Kimi Raikkonen, si è girato da Tamuro sul rettilineo e arrivano dietro tutti, non lo vedono, attenzione non lo vedono, sono passati tutti, che momento. Intanto Ricciardo inizia a mettere pressione a Sebastian Vettel, che perde il controllo della sua macchina, si gira, finisce in testa a coda con gli altri che arrivano. Vediamo se riesce a ripartire Sebastian Vettel con la pressione di Ricciardo. Si è girato Sebastian Vettel, che adesso è una situazione di pericolo. Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Brasile, una gara interminabile. Terrific drive, Lewis. Really brilliant. Abu Dhabi, sì, certo, mi piacerebbe vincere, però ovviamente so che anche senza vittoria può essere abbastanza. Non ci ho pensato ancora. Oggi adesso sono ancora qua e devo vedere come mi metto di testa per l'ultimo Gran Premio. Ve lo dirò presto. Allora, per gli ascoltatori più attenti anche di Radio 24, di tutti convocati weekend, ieri l'ho dichiarato verso le 18, guardando quello spettacolo che io televisivamente non avevo mai visto, cioè una corsa dietro la safety car su una pista allagata. Ho detto: domani chiamo Leo Turrini subito. Ciao Leo. Buongiorno, buon pomeriggio, come andiamo? Tutti in coda sulla Pero Cormano, anche se non piove. Bravo, sembrava di essere sulla Pero Cormano, tutti in fila, hai capito? E questa è la Formula 1, però non cambia mai niente, voglio dire, perché la Safety Car, che è stata la vera vincitrice di questa corsa... Bravo, che macchina è? Che macchina è la Safety Car, Leo Turrini? È una Mercedes! Ma dai! Quindi anche quando siamo in coda sulla Pero Cormano di Interlagos, sono sempre questi tedeschi. E la fanno da padroni. Io vorrei dare la mia solidarietà agli amici di San Marino che sono stati vilipesi dai lo facciamo dopo tedeschi. Guarda, dopo allora io già ti dico che dopo lo facciamo quelli che portano i calzini più. Sui sandali coi ma sandali insomma, dopo lo facciamo dopo lo facciamo non anche ti preoccupare. La fabbricare Mercedes e insomma cosa possiamo fare amici in coda sulla Pero Cormano? Niente. Possiamo assegnare subito però il premio Donald Trump da me istituito che va assegnato immediatamente a Max Verstappen, però perché ha fatto la cosa più clamorosa mi sia capitato di vedere negli ultimi anni di Gran Premio. Però dopo sembrava parliamo della corsa, io prima voglio parlare delle comiche, lo facciamo subito con un ascoltatore insieme, 800 24 00 24, con Salvatore dalla provincia di Torino. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha mai visto uno spettacolo? Sì, anch'io, ma lei ha mai visto uno spettacolo più comico di quello che cui abbiamo assistito ieri pomeriggio tra le 17 e le 19, ora italiana? No, effettivamente cioè, era da ridere, però il problema è che la gente aspettava solo che riprendesse la corsa. Perché vedere le corse di Formula 1 purtroppo è diventato noioso. Diciamo che ieri mi sono divertito poi alla fine. Sì, perché ieri si è divertito alla fine, poi a me restano le immagini, allora, di una scuderia ai box dove si stavano addormentando, dove c'era uno che mangiava una brioche. Mi resta l'immagine di uno dei tanti intermezzi di questo Gran Premio in cui Lewis Hamilton metteva il giaccone sulle spalle di una miss. Cioè, io sinceramente qualcosa di più comico non l'ho visto mai. Secondo me lo sbaglio è aver fatto fermare la gara a un certo punto, dovevano continuare perché c'erano dei piloti che sentivo che si lamentavano e dei piloti che volevano continuare. Ragazzi, il diciamoci la verità, la Formula 1 ormai è diventato uno sport, sta diventando uno sport di plastica. E Leo Turrini, lo so che è una coltellata per Leo Turrini. No, anzi, io sono d'accordo, perché ho anche visto Rosberg mangiare ben due banane durante la corsa di ieri. Quella mi è sfuggita. Ne ha mangiate due, una per ogni lunga sosta in box. Beh, ci sono dei problemi che possiamo riassumere in questo modo. Innanzitutto la Formula 1 ha subito un mutamento genetico. Io ricordo il Senna di Donington del 93 o lo Schumacher di Barcellona del 96, anche il Vettel con la Toro Rosso a Monza del 2008, fino a una decina di anni fa o quasi, nell'automobilismo, nella Formula 1, nelle condizioni estreme comunque si correva. Adesso prevale un approccio diverso da parte di chi governa l'ambiente, perché non è la prima volta, ieri hai ragione, è stato forse toccato il punto più basso. Dai, no? Io sinceramente, Leo, guardo la Formula 1 dalla fine degli anni 70. Il problema è che non è la prima volta, è già capitato anche in questa stagione, che appena vengono quattro gocce di pioggia, ad esempio, li fanno partire dietro la safety car, che come ho detto prima, purtroppo è sempre una Mercedes. Sì, senti, ascolta, no, aspetta un attimo, perché abbiamo il traffico, quello vero. No, sono Piero Corbano, sono tutti lì, c'è Hamilton dietro, una Mercedes, adesso, comunque. Adesso lo sentiamo, ma a me viene in mente, a me viene in mente quella corsa che è diventata un film che tu ben conosci, corsa al Fuji, qualche mese fa. Il coraggio di avere paura. Qualche mese fa. Sono 40 anni proprio. Traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... Convocati. Ah, mi dispiace tanto per il risultato, no? Alla fine, perché volevo finire bene per i tifosi qui in Brasile, volevo fare il massimo possibile per loro. È quello che stavo provando. Alla fine non è successo della maniera che mi aspettavo, però Dio sa quello che fa. Mi ha fermato a un posto che è difficile spiegare l'emozione che ho avuto davanti a tutti questi tifosi meravigliosi. Allora, questo era Felipinho Massa che ha salutato la Formula 1 nel suo Brasile, poi correrà l'ultimo Gran Premio. C'è stata questa standing ovation mentre a piedi tornava ai box, un episodio tra i mille episodi di ieri, Leo. Devo dire che questo congedo di Massa è stato forse il momento più bello con i sorpassi di Verstappen del Gran Premio del Brasile, perché effettivamente lui è andato in testa a coda all'ingresso della pit lane, quindi ha potuto poi godersi questa passeggiata d'addio con la gente che gli vuole molto bene. Tra l'altro ricordiamo che Massa ha vinto la sua ultima corsa proprio lì a Interlagos, quella domenica del 2008, quando tagliò il traguardo campione del mondo, e tre curve dopo non lo era più, insomma, un episodio che è entrato nella leggenda dell'automobilismo. Ma tornando al discorso di prima, io vorrei spiegarvi perché siete in coda con Hamilton sulla Piero Cormano, cioè perché in Formula 1, se un po' piove, vediamo i piloti che mangiano banane, eccetera, eccetera. Esatto. Eccetera. Allora, innanzitutto c'è un problema che si connette con la stupidità di chi governa l'automobilismo, perché hanno fatto delle regole per le quali se tu il sabato fai le qualifiche sull'asciutto, no? Poi la domenica diluvia, tu non puoi toccare gli assetti della macchina. Sì. Questo tanta gente non lo sa, ma significa quindi che i piloti vengono esposti a un rischio maggiore rispetto a un tempo, perché sabato hanno fatto la caccia alla pole sull'asciutto, poi devono correre la domenica, sì, ovviamente montano gomme da bagnato, ma la sistemazione, la configurazione aerodinamica della vettura rimane da asciutto, e questa è una follia. Dicono che così risparmiano soldi, ma secondo me invece non solo risparmiano soldi, ma non si risparmia una brutta figura. Un'altra cosa che va detta, e l'ha detta proprio Raikkonen, che ieri ha vissuto penso lo spavento peggiore della sua carriera, perché quando si è girato sul rettilineo arrivavano tutti gli altri, non lo vedevano, insomma meno male che è andata bene, è che purtroppo, io non voglio scomodare Tronchetti Provera, che è interista come me, ma queste gomme da bagnato della Pirelli non drenano, non tengono l'acqua come altre gomme del passato, perché lo si è visto, insomma, la difficoltà che più di un pilota ha avuto per tenere la macchina in strada. Prima diceva l'ascoltatore che è intervenuto, c'era una situazione abbastanza curiosa, perché mentre giravano sulla Piero Cormano dietro la Safety Car, alcuni piloti dicevano fateci andare, si può correre, no? Altri, ad esempio Vettel, dicevano no, è folle, in queste condizioni non possiamo competere. Questo deriva dalle cose che vi ho appena spiegato, cioè che le macchine non possono essere adattate al bagnato se rispetto al giorno precedente cambia completamente il meteo, e poi perché ci sono pneumatici che effettivamente hanno qualche problema. Cioè, ieri, se voi, adesso io non vi voglio annoiare perché queste sono robe molto specifiche. Guarda, io ti dico solo che a me sta venendo. No, ti faccio finire, ma a me sta venendo in mente Tafazzi, quello che. Infatti, a proposito di Tafazzi, volevo completare il ragionamento. Se ieri voi vi foste messi a guardare i tempi sul giro, vi sareste accorti che i piloti che avevano montato le gomme intermedie, no? Facevano gli stessi tempi di chi aveva le gomme da pieno bagnato, no? Sì. Quindi non c'era differenza. Ora, questo è assurdo, perché viceversa invece il tipo di gomma adattato alla condizione meteo deve garantire una prestazione differente. Beh, chiaro. Quindi all'origine di tutto, ecco, va bene, io prima ho parlato, ho detto che ho istituito il premio Donald Trump. Ecco, la Formula 1 avrebbe bisogno di un Trump. Perché questi che sono sempre gli stessi, io ce ne da 30, 40 anni, no? Che gestiscono il dorato mondo del circo a quattro ruote, ci hanno portato a questa situazione. Mi scusi, dottor Turrini, ma un Trump non ce l'ha già la Formula 1 con i capelli brizzolati e gli occhiali? No, eh? Ma penso di no, perché Trump arriva, non so cosa combinerà la Casa Bianca adesso, Eccleston è lì da 45 anni, quindi sai, io sono un grandissimo amante della Formula 1, delle corse, poi sono ferrarista nel DNA, vorrei rilanciare anche il mio hashtag Ferrari Inter mai una gioia, no? Perché comunque sempre lì siamo, 20 Gran Premi, 0 vittorie Ferrari, però ripeto, le stesse persone che da decenni amministrano il circo a quattro ruote hanno portato a questa situazione che tu hai descritto benissimo con toni accorati. E meno male che c'è questo ragazzino un po' folle che si chiama appunto Verstappen, un po' folle, un po' maleducato, sì, è simpatico, un po' come fuori un gatto, dalle regole, come un gatto attaccato, dove bravo, non possiamo dire, bravo, perché siamo in fascia protetta, bravo, bravo. Però è un fenomeno, perché veramente io ieri gli ho visto fare delle cose, quando finalmente li hanno lasciati liberi di correre, straordinarie. Cioè proprio il talento purissimo, un coraggio sconfinato, molto probabilmente, visto che la Formula 1 è diventata uno sport per vecchi, cominciando da Eccleston, avremo bisogno, ecco, non di Trump, ma di 4-5 Verstappen, perché quando poi tu hai dei ragazzi così, dei campioni in erba così spettacolari, allora poi ti passa anche la malinconia un pochino. Leo, dalle tue parti si dice ignoranza, che non è un termine dispregiativo. No, ma guarda che lui ieri ha fatto capire a chi ancora non aveva compreso, ripeto, che sì, è simpatico come un gatto attaccato dove non si può Hai dire, Marone, no? Sì. Però francamente questo è un prodigio, cioè io non voglio esagerare, perché poi ripeto, ha vinto solo un Gran Premio tutta la sua giovanissima carriera. Non ha neanche la patente, dai. Su. Perfetto, però ti fa venire in mente Senna e Schumacher, eh? Certo. Cioè tu se hai un minimo di percezione mnemonica. Senti, Leo Turrini, se mi permetti, scusa se ti interrompo, io vorrei farti parlare. No, io voglio farti parlare con gli ascoltatori che chiamano copiosi 80024. 0024 a cominciare da uno che non è proprio delle tue parti, però Emiliano Romagnolo Ravenna. Moreno, buongiorno. No, sì, salve gente, sto telefonando da Ravenna, ma sono un toscanaccio. Dammela a me che me lo lavoro io il Leo. Non hai il coraggio di dire quelli che tutti pensano, tutti si vorrebbe dire, ma alla radio in pubblico non si può dire. No, si può dire quello che si vuole, No, no, ma la Ferrari ci deve mettere un punto. Il punto sta a significare, si mette il punto e si volta pagina. Eccleston e tutta banda cantante, va bene, la devono far finita. Punto. Va bene, perché così, va bene, sì, è inguardabile. A sedere insieme a me ieri c'erano dei ragazzi che quando hanno visto, che lo capiscono dopo perché non hanno la nostra età, che cos'è la safety car a parte le ali di Gabbiano che l'hanno messa a fare l'apripista per quando casca un po' d'umido. No, sì, però mi perdoni, dopo il punto che cosa scriviamo? Dopo il punto prenderanno provvedimenti, perché quando si mette da parte la Ferrari, che presumo... Però scusi, Moreno, mi scusi, io le voglio molto bene, lei mi è simpatico, ma evidentemente non mi segue, perché io sono anni che dico che la Ferrari dovrebbe picchiare i pugni sul tavolo e chiedere un cambio totale di governance della Formula 1, quindi con me sfonda una porta aperta. Sì, ma non scappare in un'altra Formula minore. Dire, io sono anni che dico che la Formula 1 viene governata in una maniera folle, e ho sempre sostenuto, scritto, detto su internet, in televisione, Sky, eccetera, che per stare all'ultimo Montezemolo, gli errori che ha commesso sono stati proprio quelli di permettere certe soluzioni regolamentari, tecniche e così via, che sono la negazione del DNA dell'automobilismo. Bravissimo. Ed è lo stesso errore che secondo me Marchionne, che è in carico ormai da 2 anni, sta continuando a fare, perché nemmeno lui finora si è ribellato a questa cosa. Poi è chiaro che se io mi sento dire da Marchionne stesso nel weekend che ho preso il Brasile, potremmo dedicarci alla formula elettrica. Bravo. Allora io mi metto nelle ossa del vecchio Enzo Ferrari e penso che si starà rivoltando nella tomba, perché quella non è la soluzione, che la Ferrari passi alle corse con le batterie al posto dei motori. Però io ho sempre detto che questo andazzo non va bene e che la Ferrari deve prendere una posizione drastica, quindi non venga a dire ah ma non si può dire, perché lo dico tutti i giorni. Fabrizio Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, tornando indietro nei tempi, ricordo quando Alessandro Ale Benetton mi disse nel 92: Fabrizio, ho trovato uno straordinario pilota incredibile che si chiama Verstappen, era il papà, no? Sì. Incredibile, sarà una roba straordinaria. Io gli dissi: Ale, fantastico, magnifico, ci vediamo poi in circuito. Ecco, e di lì è un po' il punto, cioè Verstappen è veramente il nuovo, ma non volevo parlare di questo, volevo sempre parlare della Benetton e della Ferrari e della non crisi, ma della falsità della Ferrari. Ricordiamoci che negli anni 90 uno straordinario Flavio Briatore, con 45 milioni di dollari di budget, stracciava la Ferrari regolarmente e si inventava piloti come Schumacher. Uh-huh. Quando Schumacher andò alla Ferrari fu solamente per un accordo con Bernie Ecclestein, perché il suo nome è Ecclestein, non Eccleston, buttato poi in Eccleston. Perché? Perché la Benetton Formula era un'ottima squadra, ma ovviamente non faceva l'audience che faceva la Ferrari, quindi col beneplacito di, anzi con la richiesta di Ernie Ecclestein, Michael Schumacher straordinario passò alla Ferrari con la promessa che il buon Flavio, che conosco da 30 anni, diventasse poi il Bernie Ecclestein del futuro. La Ferrari ai tempi, come adesso, aveva 5, se non 7 volte il budget della Benetton. Ora, punto. Passa l'epoca di Schumacher e di Montezemolo. Sì. Si ritorna nel quale uno straordinario uomo di visione mercatistica, Matesi, si inventa la Toro Rosso, la Red Bull, e straccia nuovamente la Ferrari. A allora, insomma, io sono un ex corridore di moto professionale, professionista, l'ho fatto ed era stata la mia vita prima di fare, di occuparmi di altre aziende e di, sì, e di finanze. Voglio Fabrizio, dire questo, non è che la Ferrari subisce, la Ferrari è un covo di vipere, basta chiedere a Mauro Forghieri. No, chiediamolo a Leo Turrini se è un covo di vipere. Ma no, no, io ho apprezzato molto questo intervento, ci sono alcune imprecisioni. Allora, intanto diciamo che Schumacher non è venuto alla Ferrari perché c'è stata un'imposizione di qualcuno, è venuto alla Ferrari perché gli hanno dato 100 milioni di dollari di ingaggio a stagione dal 1996. Tutti gli altri piloti che partecipavano al Mondiale di Formula 1 insieme non arrivavano a percepire lo stipendio di Michael, primo. Secondo, è vero invece che Schumacher, siccome oltre a essere un fuoriclasse del volante, era anche una persona molto intelligente, disse ai vertici della Ferrari: io da solo non sono in grado di farvi vincere, dovete prendere dalla Benetton le figure professionali più competitive. E infatti nel giro di 12 mesi dopo il suo arrivo a Maranello lo seguirono in Italia Ross Brown come direttore tecnico, Rory Bear come progettista, Nigel, certo, Stepney come capomeccanico. Venne costruita semplicemente una squadra intorno a Michael Schumacher, che era un fenomeno. Leo, ti devo salutare perché ho la borsa, ma ci sentiamo nei prossimi giorni perché l'argomento è interessante e caldissimo. Borsa, torniamo. Tutti convocati. Io gliela faccio più, ragazzi. Io le... Oh, mi fate fumare una sigaretta? Dai, mezza. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni, Mix 24, in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Rieccoci. Tutti convocati. Allora, devo dire che valgono anche dopo gli ascoltatori relativi alla Formula 1. Più tardi parleremo anche di MotoGP e della chiusura del sipario sulla stagione mondiale con la vittoria di Lorenzo a Valencia, scontatissima peraltro. Però adesso vorrei cambiare argomento, perché ieri abbiamo visto, dicevo, uno spettacolo cui non eravamo abituati, cioè per due ore le macchine girare su una pista completamente bagnata, completamente inondata dietro la safety car. Ora c'è un altro argomento che potrebbe diventare anche televisivo, e cioè la richiesta di Ventura in funzione della partita che sarà fondamentale per la qualificazione ai mondiali contro la Spagna a settembre. E allora Ventura chiede di anticipare l'inizio del campionato addirittura a metà agosto. Sentiamo cosa ha detto. Si sanno che soprattutto le grandi, che poi sono quelle che di solito offrono i giocatori, iniziano tournée all'estero, fanno e poi arrivano e hanno bisogno dei loro tempi, quindi questo è un problema, che almeno due, questo sì, è già stato chiesto. Io in realtà in un momento di follia avevo chiesto tre domeniche di campionato, ma mi hanno detto se mi facevano ricoverare, quindi allora sono sceso subito a due. Noi ormai siamo un po' schematizzati così, ma giocano tutti, quindi dico interesse nazionale, tra virgolette, poter andarci a giocare ad armi pari. Poi se sono più bravi, diciamo, sono più bravi, però giochiamoci. Ecco, è evidente che, però questo è stato chiesto, poi vediamo quello che sarà, succederà. Dunque, questione di interesse nazionale. Allora, c'è Pierluigi Pardo, naturalmente. Ciao. E poi per un dibattito che coinvolge anche la televisione, che è quella che fa girare la giostra e che mette il codino da strappare per vincere il secondo giro, anche Federico Ferri dai piani alti di Sky, sempre a secondo ma dai piani alti. Ciao Fede. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora ragazzi, cosa ne pensate di questa presa di posizione di Ventura? Mi hanno detto che sono matto, sono da ricoverare se chiedo di cominciare a giocare il 13 di agosto. Allora, 13 di agosto è molto presto, però lo richiederebbero esigenze di solidarietà nazionale. Come la pensate voi, Pardo? Ma allora, innanzitutto Ventura fa pienamente il suo mestiere, fa il suo lavoro e quindi non possiamo che... Non mi sorprende affatto questo tipo di uscita, in qualche modo l'avevamo anticipata ieri sera, appunto, tutti i convocati, appunto, quindi appunto. Questo è il punto di partenza. Credo sia difficile, anche se poi come sempre nella vita, se alle cose gli dai un senso e una costruzione, possono diventare interessanti. Ad esempio, sappiamo benissimo che Ferragosto è un giorno speciale e quindi magari il 13 no, ma il 14, il 15, adesso lancio qui un'idea, potrebbero diventare, insomma, il 15 è un giorno in cui si riposa, il 14 è il giorno classico, sì, quando tutti gli italiani sono al mare. Vabbè, ho capito, ma non è che se parti il 20 cambia molto da questo punto di vista, e non credo francamente che i turni intrasettimanali, poi Federico ovviamente fa il mio stesso mestiere, ma lo fa ormai con la logica, diciamo, più manageriale, più da persona che decide le cose, decide chi fa cosa. E quindi probabilmente ha anche un punto di vista più ufficiale da questo punto di vista, e quindi sarà interessante ascoltarlo. Però ecco, insomma, io posso dire che se anche togli il turno intrasettimanale in più e costruisci invece un senso, visto che tanto partiresti il 20 a una grande giornata di Ferragosto, ovviamente con degli orari scaglionati, anche perché in quel periodo devi giocare ovviamente la sera, e costruisci un significato e un valore a tutto quello, secondo me dal punto di vista previsivo può non essere male comunque. Allora io voglio sentire cosa ne pensano le mogli degli ascoltatori, più che altro. 800 24 00 24. Sono sempre stato contrario al coito interrotto di una giornata e poi pausa, perché quella è una cosa inverosimile ed inguardabile. Due giornate sono già accettabili, tre non lo so. Federico Ferri. Ma si faranno due giornate, l'ha già detto Ventura. Guarda, allora, intanto mi divertirebbe una giornata a Ferragosto per cui poi le televisioni sarebbero accusate di aver fatto giocare a Ferragosto col caldo, no? Perché poi ci sarebbe caldo, perché alla fine... Cioè non, non Ventura che l'ha chiesto, ma la televisione. No, bravo, perché comunque questa leggenda delle televisioni che incidono così tanto sul calendario, sugli orari delle partite, beh, vi posso garantire che di leggenda si tratta. O meglio, io potrei, spero, mi auguro che questo possa accadere, perché per il bene dello spettacolo certamente avremo, a mio parere, voglio dire, calendari differenti rispetto a quelli che abbiamo. In realtà non è così, è una decisione che spetta la Lega Calcio e da questo punto di vista c'è una grande indipendenza. Certo, la Lega Calcio ha un prodotto da vendere e quindi cerca di venderlo nel miglior modo possibile, ma certamente le esigenze televisive, ve lo posso garantire, rispetto ad esempio ai veti dei club o a quelli degli allenatori che preferiscono far giocare la squadra la domenica o lunedì dopo le coppe, prima delle coppe, eccetera, eccetera, è certamente minoritaria. Ma l'esempio classico è Natale, Federico. L'esempio classico è Natale. Cioè, se dipendesse dalle televisioni, certo, secondo me anche da giocherebbe tutta la vita. Spettatori. Certo. Perché poi posso anche dire questa cosa. Non è che le televisioni siano lontane dai telespettatori, cioè le televisioni fanno quello che al contrario, ecco, appunto, perché se no sembra sempre che le televisioni siano un ente, no, tipo una loggia massonica. No, le televisioni essenzialmente cercano ovviamente di valorizzare il prodotto che hanno, e cioè di renderlo il più possibile aderente a quelle appetibile che sono a quelle che sono le esigenze di chi guarda e paga l'abbonamento. Ragazzi, c'è un altro discorso che riguarda le trasferte, questo va detto, perché è chiaro che i tifosi che vanno in trasferta che giocano, vedono le partite per esempio la sera in trasferte lontane, sicuramente sono penalizzati. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio, non faccio il vago su questo, questo lo sappiamo. Però io penso pure, e lo dico sempre, che siamo ormai innamorati del calcio internazionale. Se siamo degli appassionati di calcio, amiamo anche l'idea che oltre alla partita della nostra squadra che ci andiamo a vedere allo stadio, magari ci vediamo in un weekend un altro paio di partite che ci piacciono. E da questo punto di vista le televisioni non fanno altro che rispondere a questo tipo di desiderio rispetto a 20 anni fa o 30 anni fa, quando si giocava tutti alla stessa ora. Quindi insomma è abbastanza, secondo me è sbagliato considerare le televisioni come un organo che fa praticamente per interessi. No, fa poi ci sono Pierluigi, poi ci sono Federazione e Lega che non dico sono come cane e gatto, però ognuno fa i suoi interessi. Allora ragazzi, vi prego, rimanete. Pierluigi Pardo, Federico Ferri, abbiamo il time out per il traffico, torniamo, gradite le vostre opinioni. 800 24 00 24. Tutti convocati. Questo fa fatica, ragazzi. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, con Pierluigi Pardo e Federico Ferri di Sky stiamo affrontando questo tema lanciato da Ventura. Anticipiamo a Ferragosto, grosso modo, l'inizio del campionato. Poi ci sono vari ascoltatori che scrivono: con il calcio mercato come la mettiamo, e come la mettiamo con questo, con quello, con le vacanze, con le mogli, che io invito a intervenire. 800 24 00 24 è il numero verde. Dicevo, Federico, che la Lega fa i suoi interessi, giusto? Certo. La Federcalcio fa i suoi, che potrebbero coincidere con quelli di Ventura. Sarebbe un precedente storico vero se si decidesse di, per ragioni di interesse nazionale, ossia la partita con la Spagna, iniziare il campionato in quei giorni. Sicuramente sarebbe un precedente storico e innegabile, anche in riferimento a quello che dicevo prima, che le giornate che si disputano ad agosto hanno una fill inferiore rispetto a quelle da settembre in poi. Questo vale ovviamente per le televisioni, per gli ascolti, perché la gente è al mare, vale per gli investitori pubblicitari perché c'è meno pubblico, vale anche per le società stesse che hanno meno pubblico allo stadio e incassano di meno dalla pubblicità, dai rotoli, eccetera. Quindi questo è innegabile. Perciò non c'è interesse da parte di nessuno di anticipare la giornata. Sicuramente io credo che nessuno poi alla fine si tratterebbe i capelli e si ucciderebbe per una giornata in più, però sinceramente è una data molto discutibile, posto che si è cominciato il 17 nel passato, si è cominciato il 17, quindi non sì, è però in anni di mondiali europei, Fede. Bravo, esatto, in anno di mondiali europei, qui sarebbe l'anticipare per disputare una partita. Faccio una domanda, una proposta. Uno, di Spagna quando cominciano? Cominciano il 13. Cominceranno il 12. Cominceranno il 12 e il 13. Non si sa ancora, ma cominceranno, penso, il 12 e il 13. Sei convinto che non comincino il 20 come al solito? Perché sta discutendo anche lì, mi risulta. Però vabbè, a parte questo, faccio una proposta però. Ma perché non pensare, capisco che la cosa sia considerata quasi impossibile, come del resto impossibile cominciare il 13, diciamocelo chiaramente. Ma pensare come fa il basket, come fa il volley, ad un collegiale con giocatori a disposizione di 5 giorni per Ventura nello stesso periodo? Certo, li toglieresti ai club, li toglieresti alle amichevoli in giro per il mondo, sono d'accordo. Però perché non proporre questo? Sì, è perché c'è il preliminare. Il preliminare, tra l'altro, credo che sia proprio a Ferragosto, perché sicuramente in quel 14 qui, da martedì, mercoledì e giovedì, durante l'Europa League si gioca. Io penso che qui la questione è molto semplice: da un lato tutte le variabili di carattere economico e ovviamente anche l'interesse dei telespettatori, proprio perché l'interesse dei telespettatori coincide con l'interesse delle televisioni e con l'interesse degli sponsor, portano a non alterare, a cominciare il più tardi possibile. Tutti invece gli interessi tecnici della nazionale, ma ci aggiungo anche quelli dei nostri club. Io penso che il fatto che noi siamo storicamente un campionato che parte tardi non ci dà una grande mano a livello di preliminari. Poi Ma ci mancherebbe, ma se... le stesse televisioni, Pier, ma una televisione vorrebbe un mondiale senza l'Italia, ma ci mancherebbe altro, ovviamente certo. Non però ragazzi, non è quello il punto. Non è neanche il caso di enfatizzare in questo modo, cioè non è la partita one shot per andare ai mondiali, cioè, quindi, non è lo spareggio, non è lo spareggio, non è il playoff, poi che però sia molto importante, importante ragazzi, ma sì, Pierluigi, poi, che sia importante questo, è indubbio. L'anomalia, come dicevamo anche ieri, è che noi siamo in un girone con la Spagna, è l'unico girone, se vogliamo anche quello Francia-Olanda, ma l'Olanda è abbastanza decaduta, che poi era vinto, insomma, è l'unico girone di qualificazione nel quale ci sono due big, sì. Ci sono altri gironi dove non ce n'è neanche una, quindi questo è abbastanza clamoroso, abbastanza sorprendente. Andiamo a vedere le seconde del girone in questo momento, alla fine vediamo che se anche dovessi andare allo spareggio, facendo le corna, toccando tutto quello che volete, avremmo al 99% uno spareggio con la spalla sulla carta inferiore, però certo, te la giochi in 180 minuti e quindi la Francia di turno chiaro. O l'Irlanda di turno può diventare un'avversaria ovviamente complicata, non è la prima volta, il famoso Italia-Russia per andare al mondiale 98, insomma ci sono stati dei precedenti, ci sono stati dei precedenti. Allora ragazzi, ecco, vi direi di rispondere ad Aldo da Milano e poi vi saluto. Aldo, buongiorno. Vai. Buongiorno a voi, niente, io volevo intervenire su quello che diceva infatti Pardo. Diciamo che vabbè, stiamo un po' enfatizzando, anche perché io sono un accanito tifoso, a parte sono milanista, seguo il calcio, quindi lo seguo anche in vacanza, sono malato di calcio. Ma però, cioè, vuol dire, io vedo la Premier che comincia già il 1 agosto, già partono con la stagione regolare, con la Community Shield, questi giocano sempre e mi pare che nessuno si lamenti, giocano anche il giorno di Santo Stefano, cioè voglio dire, anticipare di qualche settimana non serve per così un dramma, anche perché ritengo che le nostre squadre siano, come dicevo, sono indietro, cioè io vedo i preliminari, mi sembra che l'ultima squadra che abbia passato i preliminari è stato il Milan con il PSV Eindhoven, dopodiché abbiamo fatto un flop con 3 anni consecutivi, facciamo un flop con i preliminari, le nazionali si presentano in stato pietoso quando partiamo, perché comunque siamo indietro di condizione, credo che iniziare un po' prima non sarebbe così, cioè voglio dire, non mi sembra poi che sia così da pazzi, ecco. Ma da pazzi no, una questione di cui discutere, sì, per le ragioni di cui sopra. Lascio la risposta a Pardo e a Ferri. Sì, comincio io. Ci sono più partite in Inghilterra nella stagione con la Coppa di Lega e soprattutto si gioca a Natale, che credo sia un compromesso per cui si potrebbe arrivare anche a cominciare prima, giocare meno turni infrasettimanali per quanto riguarda... Poi Fede, si può discutere con Eriksson che diceva arrivano i giocatori alle grandi competizioni che sono spremuti come i limoni, perché quindi non rompeteci le scatole se usciamo al primo turno. Ci si potrebbe anche fermare 20 giorni a gennaio, quella è una cosa che si potrebbe fare a prescindere, secondo me sarebbe di grandissimo buon senso. Sono d'accordo. Perché alla fine il clima è lo stesso fra il periodo di Natale e il periodo di gennaio. L'idea che il calcio sia un divertimento proprio per le famiglie, per la gente che vuole andare allo stadio, che vuole vedersi le partite in televisione, insomma la cosa bella del campionato inglese è che si concentrano una serie di partite oltretutto belle nel periodo natalizio, si riesce a giocare magari in quei 10 giorni tra il Natale e la Befana, invece di andare in vacanza si gioca perché la gente ha più piacere andare allo stadio, perché ha i giorni liberi, perché ha qualche soldo in più, perché c'è la tredicesima, magari va allo stadio più per mille ragioni, è una cosa proprio giusta e saggia che andrebbe fatta. Poi legare al concetto di festa è bellissimo, sono d'accordo con te, Pier. Ma io credo che su questo punto siamo tutti d'accordo, e gli inglesi ma anche gli americani insegnano questa via, poi seguirlo o no è un altro discorso. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao Pier, ci sentiamo domani con te. Ciao Federico, con te a presto. Ciao, adesso ci fermiamo per una breve pausa, non c'è GR perché è in corso un'assemblea sindacale. Torniamo dopo con un incipit sui calzini con i sandali e poi chiudiamo il sipario sul moto mondiale. Mi ha già raggiunto Roberto Ungaro. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 15. Questa edizione di GR24 non va in onda perché è in corso un'assemblea della redazione. Il prossimo giornale radio alle 16. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. Namo, let's go! Tutti convocati. Allora, prima di aprire il capitolo, o meglio chiudere il capitolo del Moto Mondiale, visto che ieri a Valencia è calato come d'abitudine il sipario, saluto già Roberto Ungaro, The Boys. Ciao Carlo, Roberto, saluto ciao a tutti. Prima ti racconto questa storia. Allora, ieri Germania San Marino 8-0 e Müller, uno dei giocatori più forti e rappresentativi della Germania, che dice: ragazzi, ma cosa ci fate fare queste partite? Ma che senso hanno queste partite? Premettendo che contro gli interessi anche del mio interlocutore che ora presento, io trovo una follia, comunque sono d'accordo con il mio amico Cruciani, le qualificazioni mondiali tout court, cioè secondo me le grandi dovrebbero essere grosso modo qualificate di diritto, però è giusto che in questo calcio allargato partecipino anche le piccole. Allora saluto Alex Gasperoni, che è Alan Gasperoni, che è di San Marino, che insomma ha risposto per le rime al grande Müller. Ciao Alan. Ciao, buon pomeriggio ciao a tutti. Allora spiegaci perché invece queste partite per una piccola federazione come San Marino hanno un grande valore e un grande senso. Poi mi racconti quella dei calzini. Quella è quella che è rimasta più impressa. In realtà Sì, ha fatto titolo. Il mio voleva essere un post così di conforto ai ragazzi della nazionale, che prima di tutto sono degli amici e che sono stati attaccati in questa maniera da Müller, ma non è la prima volta purtroppo, perché già in altre occasioni contro altre grandi nazionali è emersa la questione servono o non servono questo tipo di partite. Io scherzando ho preparato una risposta in 10 punti sul perché queste partite servono, in maniera così ironica, anche abbastanza spensierata, senza immaginare che arrivassero né allo stesso Müller né sui giornali nazionali né alle radio come la vostra. E è andata così, mi sto divertendo tanto, oggi ho tanti contatti, tanti nuovi amici, però in realtà quello che mi piacerebbe è che rimanesse il messaggio che io ho provato a lasciare, ovvero che il calcio comunque è di tutti ed è anche nostro. Sì, il calcio di tutti è anche vostro ed è anche comunque, parliamo di grano, una fonte di sostentamento, no? Perché i denari che arrivano a San Marino, ad esempio dai diritti televisivi per queste partite, sono importanti per? Sì, indubbiamente, sono importanti per la crescita del movimento. Io ho portato un esempio perché è quello di cui stiamo parlando in questi giorni su San Marino. Noi costruiremo presto degli impianti nuovi e chiaramente parte dei contributi li potremmo sfruttare, parte dei contributi d'immagine, diritti d'immagine, diritti televisivi li sfrutteremo per costruire nuovi impianti, nuove strutture, per migliorare il nostro calcio, per dare nuove possibilità di crescita ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, insomma c'è un sistema calcio anche a San Marino nel suo piccolo che costa e vive grazie a queste cose. E poi resta la frase: e poi non accettiamo lezioni da chi indossa i calzini bianchi sotto i sandali. Questa è una battuta che sfrutta un vecchio luogo comune. Noi siamo, sai che San Marino è sulla riviera romagnola, i tedeschi hanno invaso la riviera romagnola soprattutto negli anni 70-80 e si presentavano con la canottiera e i calzini bianchi sotto ai sandali. La mia ovviamente nell'arco di queste 10 frasi 8 o 9 erano serie, una l'ho voluta mettere un pochino così, un po' più ridicola e ha naturalmente fatto titolo. Va bene così, non è un problema perché comunque hai fatto un po' il Mourinho. Ho fatto un po' il Mourinho, bene, sono un tifoso interista, quindi mi fa piacere questo accostamento. Senti, ti ringrazio Alan. Buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Io sono per San Marino che batta la Germania 8-0, magari non lo vedrò mai, però i sogni restano, i miei e quelli di Roberto Ungaro e quelli di Valentino Rossi e quelli di Jorge Lorenzo sulla Ducati e quelli di di tutti quelli che hanno partecipato a questo mondiale che è stato bellissimo. Mistress, mistress, on me. Bravo, bravo, bravo, Jorge Lorenzo c'è e vince davanti a Marc Marquez, la Yamaha in piedi sul muretto con una tabella che dice grazie Jorge, bellissima questa scena. Non posso essere più orgoglioso, più felice di questa finale perché abbiamo conseguito in un solo fin di settimana troppe cose bellissime, no? Come 250 grandi premi, finire la mia grande tappa con Yamaha y exitosa que tappa con Yamaha, con una vittoria, una pole position con el giro veloce. Ho cominciato con 20 anni lì per 2008, siendo un ragazzino, con la pole position, e finisco 10 anni dopo con pole position e vittoria. Sono uno che parla poco, non parla molto, però capisce forse molto anche. E quindi tante cose le capisco, le vedo, però non sono arrabbiato con nessuno di Ducati, sono molto felice per come mi hanno comunque continuato a trattare. Avete sentito Lorenzo, dominatore di ieri, quote stracciate, l'avevamo già anticipato venerdì, no? Assolutamente. Roberto Ungaro. Anche se ci fosse stato ancora un giro o due, Marquez, non so se sarebbe finita così la gara. No, ma loro erano d'accordo l'anno scorso, non andava a rompere i coglioni. Ah, ok. Bravo. No, si è chiuso nel migliore dei modi, politicamente molto corretta, belle molto dichiarazioni, corretta. Tutti bravi, eh? Tutti l'unico bravi. Iannone è stato qualche che abbiamo sassolino. Sentito adesso, ma io non sono arrabbiato con quelli della Ducati. No. Perché però dopo si sentiva il rumore del naso che cresceva, che fendeva l'aria e si allungava. Sì. No, devo dire che comunque è stata una gran bella gara, perché è una pista avara di sorpassi e invece ne abbiamo visti parecchi. Iannone scatenato, come staccava lui non ce n'era per nessuno, una Ducati che è nettamente superiore, e questo ci ha consentito di vedere tanti sorpassi. La battaglia fra Valentino e Iannone io penso che rimarrà veramente memorabile, anche perché quella dai piloti viene giudicata quasi una pista da go-kart, un sì, pistino molto corta, sì, non adatta, stretta, non ci sono punti dove sorpassare, ce n'è un paio al massimo. Invece ieri abbiamo visto che hanno inventato la guida, linee nuove, lo stesso Valentino dove passava, e questa è gioia per noi spettatori, in contrasto a quanto dicevi prima Carlo invece della Formula 1, quindi siamo diametralmente all'opposto, sì, 9 vincitori ed è la fortuna, sì, del moto mondiale, sì, perché sì, sì. Mai come quest'anno abbiamo visto una Formula 1 plastificata, perché così vogliono i regolamenti, è stato praticamente tolto l'agonismo. L'anno scorso ne abbiamo visto magari un pelo troppo, ma quest'anno, dicevi tu giustamente venerdì, facciamo la foto a tutti, sì, quelli che hanno vinto perché le corse in questa stagione, perché magari non succederà più mai. Forse non lo vedremo mai, 9 vincitori diversi in una stessa stagione. Non abbiamo il problema, come diceva ironicamente l'ascoltatore di prima, cioè, i tedeschi ci hanno portato la canottiera, non abbiamo il problema della Formula 1 con questi tedeschi che dominano. Poi c'è da dire che la canottiera è diventata di moda, e noi l'abbiamo fatta di moda. In Romagna l'abbiamo trasformata ed è diventata un oggetto, come dicono, cool. Una parola che odio, cool. Però si usa molto. Cool, stay cool, be cool. A me piace in dialetto stay quella parola, cool. Ma non in inglese. E allora, quello che dicevo è tanti sorpassi, bella, bella gara. E poi le dichiarazioni, sai, nel pre, nel dopo, poi c'è stato anche quel fatto di Valentino che ha dato il calcetto nel paddock, un paddock in... Sì, la signora, sai, lo vuole denunciare. Pare che scatti la denuncia, questa è la denuncia, cosa, sì, della signora. Strano da Valentino, che è molto attento a come muoversi, l'immagine... Perché gli è partito l'embolo? È partito l'embolo perché il paddock in effetti è diventato invivibile per chi ci lavora, cioè ci sono talmente tanti ospiti, tanti pass che girano, che diventa come Corso Monosare alle 6 del pomeriggio di sabato, non riesci a girare. Quindi hai il pilota che arriva lì, sì, l'adrenalina della corsa, la stanchezza, la fatica della corsa, ti trovi in mezzo alle palle un sacco di gente. È un'attività frenetica che devi passare da una parte all'altra, perché è 1000 appuntamenti, lo scatto con lo sponsor, devi andare, il tuo turno, vai, io non voglio giustificare Valentino, quello che ha fatto non è bello, e lui stesso lo ha ammesso, però la vita frenetica del paddock bisogna viverla da dentro per capirla. È questo che io dico, quindi bisogna essere obiettivi nell'analisi di tutto, non è una giustifica. Lo sentiamo Rossi? stata una bella gara, molto, molto emozionante, con tanti sorpassi. Purtroppo verso metà gara ero riuscito a essere secondo, ho fatto anche dei bei giri, ma Iannone oggi era molto veloce. E anche Marquez nella seconda parte della gara era molto rapido. E quindi è riuscito ad andare via, siamo rimasti io e Andrea e ci siamo passati un sacco di volte. Io ci ho provato, però alla fine ero un po' in difficoltà con le gomme. Sai, se Valentino fosse stato motivato come in Malesia, avrebbe battagliato in modo diverso. Se c'era ancora in palio il secondo posto per il campionato, sarebbe stata un'altra corsa. Altra corsa, che comunque con Iannone se le sono dati. Io pensavo che magari alla fine anche avesse da dire Valentino, invece ha detto che no, cioè, è stato tutto corretto, leale, ci siamo divertiti. Certe inquadrature sembrava veramente che andassero carena contro carena. Senti, ma quanto sono attaccati. Non voglio fare il malizioso. 800240024 è il numero verde, 349-238-6666. Ho una domanda per Ungaro, ma gliela faccio dopo. Voglio essere sincero. A Iannone crediamo come a Pinocchio, no? Quanto crediamo a Jorge Lorenzo che dice grazie amici della Yamaha? Zero. 9 anni meravigliosi. Zero. Secondo me lui, sai, di Lorenzo ce ne sono due. Uno è la persona che purtroppo ha poca empatia, non è simpatico e ha questa difficoltà a interagire, a relazionarsi. Invece quello che... Pur essendo un bravo ragazzo. Ma è un bravissimo ragazzo, è molto simile a Max Biaggi. Infatti hanno avuto un passato, un trascorso abbastanza parallelo. Cioè hanno un rapporto un po' conflittuale con la realtà attorno a loro. Però se lo metti sulla moto, per chi è appassionato, è lo stato dell'arte della guida, è un pilota velocissimo, determinato. Non si vincono 3 mondiali così per caso nella classe regina nei suoi 9 anni alla Yamaha. Cioè di Lorenzo è al rispetto di tutti gli addetti al settore, perché quando è in forma, quando c'è, lo abbiamo visto anche ieri, ha fatto pole, giro veloce, ha vinto, cioè per distacco. Quello è Lorenzo che conosciamo. Lui sbaglia a parlare, non deve parlare. Si vede che qui ha imparato talmente bene la lezione che si è preparato molto prima e ha detto le cose correttissime. È stato un ottimo rivale, ho imparato con Valentino e gli ha fatto anche i complimenti. Sì, cioè, poi c'era il muro di Berlino. Esatto, perché tutte comunque, queste altre cose. Ricordiamoci il passato quando venne eretto il muro di Berlino all'interno e lui dovette digerirlo. Insomma, adesso è divertente vedere che lui se ne va in Ducati, è una situazione diversa rispetto a quando andò Valentino. La moto è completamente un'altra moto, però sarà divertente vedere. Lo abbiamo detto più volte: l'apprendistato non sarà così veloce, però è competitiva quella moto lì, anzi di motore è avanti agli altri, devono lavorare quest'inverno ai giapponesi, perché altrimenti devono svegliarsi. Domani già vedremo, perché domani e mercoledì proveranno, e quello è un antipasto della stagione 2017. E poi è interessante vedere i 3 nuovi piloti con i colori diversi. Certo. Allora coinvolgiamo Carletto Pernat, così facciamo una grande chiosa della stagione. Ciao Carlo Pernat. Ciao ragazzi. Ciao. Qui da Valencia. Oggi è un po' più fresco di ieri, ve lo dico. Senti, accorciamo il naso di Iannone dopo le bugie che ha detto ieri. Hai preso la lima e hai cominciato a limare il naso di Iannone? Ma guarda, è un bel Pinocchio comunque, perché guarda, ti dico, io penso che sia una cosa anche logica, che quando c'era due piloti come Lorenzo e Iannone che avevano più motivazione di tutti, che era quella dell'ultima gara. Certo. Forse anche più di Vignales, guarda. E ti dico, Lorenzo l'ha fatto in un modo strepitoso, perché ha vinto una gara alla Lorenzo, e poi alla fine secondo me ha detto anche parole abbastanza dolci, diciamo dolci esagerato, però sì. Dette da lui sono zuccherose, parole dai, bravi, non ci crede nessuno, politicamente corretto, mi viene il diabete, Carletto. E infatti gli sto dicendo proprio questo, no? Stranissimo, lui che quando apre bocca bisognerebbe che la chiudesse normalmente. Quello che ha detto adesso Ungaro dovrebbe non parlare mai. E ha ragione. E invece sai, Iano, cosa vuoi, è tornato dopo che si è rotta una vertebra, tanti zeri, torna, l'ambiente non era più quello di prima, ma è evidente, magari qualche cosa tecnica che ha Dovizioso, le ultime due gare lui non ce l'ha ed è legittimo perché lui va via, e si è creato tutto un ambiente che non era quello di inizio campionato, di metà campionato, e quindi un po' di sassolini se li è levati, secondo me anche abbastanza elegantemente tutto sommato, però sai come Andrea dice un po' le cose che pensa. Guarda, io ti dico, faccio un paragone sportivo a livello di bestemmia sportivo usando questa parola. A me piacciono sia lui che Verstappen. Sono i due della MotoGP e dell'auto che sono fuori dal coro. Sì. Ma lo sono fuori dal coro sia come personaggi che come guida. Sì, sì. Perché il momento che Iannone, vedi, ieri credo che sia quello che ha emozionato sì, più di tutti. Verstappen è un po' più maleducatello, Iannone è un po' sì, più, no, è un no, po no, più, io un rimetto... po' più attento. A me piace a me piace molto anche Belen, ma comunque questa è un'altra storia. Ma questa anche a me è un'altra storia, ragazzi. Sono entrambi non bravi ragazzi di cui lo sport a motore ha bisogno. Bravo, ricordiamoci. Bravissimi. Sono quelli che danno emozioni, ragazzi. Esatto. L'emozione di ieri, oggi stamattina parlavo con Luca Calamai, che conoscete nella Gazzetta, lui ama profondamente Iannone, e gli ho detto sì, calma, hai ragione, perché poi a casa ti piacciono quelli che ti emozionano, quelli che fanno i sorpassi come ieri di Iannone, che poi non si è visto il sorpasso più bello che tutti l'abbiamo visto dalla, da, diciamo dalla motocar, cioè anche se sì. non si è visto come è passato, io ero convinto che fossero andati per terra, ho detto sta a vedere, sembrava un lungo e invece è stato dentro e ha curvato, è una cosa, ieri come staccava Iannone, dove passava e come guidava, è una roba meravigliosa in una pista così, ed è quello che la gente è bravo, certo. E la gente piace, certo. Piace questo perché ti emoziona, guarda, io dico una cosa, adesso Andrea deve arrivare a una fase importante della sua vita ed è quella di dire o faccio lo showman e vinco un paio di gran premi, però vado per terra 3-4 volte il mondiale, il CP Merlo, come diceva il buon Breda, non lo vedo più. Oppure fare il pilota che vince uno o due gran premi e poi si accontenta di fare anche quarto o quinto. È un bivio. Però sai, allora, il bivio noi lo possiamo dire, però quando butti giù il casco non c'è più, vivi non ce n'è più. No. C'è chi mi... Allora, io ho un sacco di messaggi. C'è chi mi scrive Iannone come Lucchinelli. C'è chi mi scrive Ungaro uno di noi. Vabbè, ma glielo dico così è contento. Quello sempre. C'è una domanda che è rivolta a tutti e due, che mi è arrivata prima via SMS. Il 2017 può essere l'anno di Pedrosa? Ragazzi, troppi anni sono passati per sbocciare questa rosa. Troppi anni. Guarda, sì, hai ragione, però ti dico una cosa, sta cambiando anche tutto l'aspetto tecnico. Tu sai chi va a lavorare con lui come capo tecnico, te lo dico io. Sì, lo so. Va Giacomo Guidotti, bravo. Guidotti. Che è molto bravo, lui ha fatto Suzuki ufficiale, ha fatto Superbike con Biagi. Certo. Cioè uno molto calmo, tranquillo. Sono importanti anche questi personaggi. È chiaro che però il Pedrosa, che ha molti, appena cade di cristallo, sì, è vero. Vale, purtroppo. Comunque, è sfortunato Guidotti, tu lo sai Carlo, e Guidotti ci va anche per curriculum, perché essere in HRC fa curriculum. Però attenzione, hai ragione. È un ambiente facilino quello lì, Lo sai bene. Lo so, però l'hanno chiamato, non è che si è proposto, è diverso. Mentre invece quando richiamano, insomma, il contrario di Lorenzo, che invece non avrà nessuno tranne il suo fido Scudiero, che lo segue da quando era con la Derby, perché Forcada rimane con Vignales, tutta la squadra rimane lì. Lorenzo con quella moto lì nuova completamente diversa, quello che dico io è non sarà facile quel matrimonio lì, cioè dovrà passare qualche gara. Sentite questo, questa carogna cosa mi scrive. Mi sa che invece a tua moglie piace Iannone, lui sì che sa andare in moto, riferito a un mio disguido avuto in estate. A chi? A te Carlo? Cioè, mi sembra una carognata che non capisco, però è una carognata. No, perché mi sono sdraiato in moto, va bene. In moto succede. Non sono mica geloso. O anche Iannone si è sdraiato diverse volte. Anche Ungaro si è sdraiato diverse volte. Domenica l'ultima volta. Ma andare in moto è così. No, però Carlo, per ridere. Cosa ti dico? Ti dico che guarda, è più facile provare passare da Ducati a Suzuki che da Yamaha a Ducati, e questo è sicuro. È quello che dicevo io. È quello che dicevo io. Perché è difficile, ragazzi. L'impatto poi qua a Valencia non è una pista molto adatta, anche perché Jorg ha sempre corso con la Yamaha, non dimentichiamocelo, che è una moto che ti porta per i fatti suoi. È nato col 4 cilindri in linea e se l'è costruito come un abito su misura. Stefano che mi scrive. Scrive anche la Ducati di Stoner era competitiva prima che la prendesse Valentino. No, è Stoner che è competitivo, è Stoner con quella che moto. È ignorante risposta nella guida in senso, perfetta. È Stoner che è solo lui che la guida così, perché ha quella guida e ignorante. Ti dirò di più, mi inserisco e faccio un po' il maleducato. Vai. Il 2007 era un anno particolare, non è che si possono raccontare tante cose, però è vero. Si veniva da 3 anni di Bridgestone che provavano con le moto, le gomme con la Ducati di Tamada, se vi ricordate, sì, gli incidenti. Lo sviluppo l'ha fatto loro, è Ducati che ha portato, sì, Bridgestone al moto mondiale. Tanto e quindi è vero che aveva un tanti patrimonio. Non sanno, tanti non sanno che il 2006, scusa, il 96, la Ducati fece un test team per le Bridgestone con Ito, che era un pilota ufficiale Honda fino all'anno prima. Sì. E sai cosa vuol dire un anno fare le prove delle Bridgestone da solo con un pilota che era in onda e andava anche forte? C'è arrivato il 2007 che le tue gomme ti davano un vantaggio che era molto, sì, ma molto discreto, dico vero, una parola discreto per non dire altro, no, però Stoner, oh, ragazzi, stiamo punta a capo, quello è un po'... Stoner è stato un bene o un male, io adesso faccio una provocazione. Vai. Stoner è stato un bene perché hai vinto. Ma Stoner è stato un male perché non hai sviluppato niente, perché Stoner non sviluppava. No, certo, e la moto era quella ed è rimasta. Tant'è vero che quelli sono arrivati dopo hanno subito lo non sviluppo di questa moto. Verissimo. Ed è stato un flop terribile. Vero, ma non è mica una provocazione, Carlo, è una... Io credo sia una profonda verità. Penso che sia una profonda verità. Allora, io ho un miliardo di messaggi. Uno, vabbè, attizziamo l'ego di Ungaro che Luca rivuole in telecronaca. Poi Marquez in Ducati, binomio perfetto. Su questo ho qualche dubbio, lo chiedo a voi. C'è chi scrive: se i mondiali iniziassero ad agosto, Pedrosa avrebbe 7 mondiali almeno. Vabbè, vero. Ma com'è vero? No. Carlo, prima quando hai detto... Io avrei una risposta di Marquez. Vai. Te l'avrei perché conosco la storia. Vai. Allora, Marquez fu cercato dalla Ducati prima di Lorenzo, posso garantire. Vero. Fu cercato ottobre, novembre, insomma quel periodo lì. Non ti nascondo che le cose non erano distantissime, non erano vicinissime, ma nemmeno distantissime. Quello che successe a Sepang l'anno scorso ha fatto chiudere il cerchio, perché lo sponsor principale non ci ha pensato nemmeno avere un pilota che si era macchiato, tra virgolette, di un comportamento antisportivo. Se no c'era quella possibilità, te lo posso dire. Sarebbe stato divertente vederlo, insomma, sulla rossa. Direi di sì. Senti, direi di sì. Carlo, ti provoco. Prima hai detto Iannone è di fronte a un momento, un bivio molto importante. Sì. Pensavo che dicessi, che convalidassi lo scoop che ho letto in giro nel gossip, che Belen vuole un figlio da lui. Ma sai, quello sarebbe un quadrivio, non è più un bivio, attenzione, io parlo di bivio sportivo. Però sai cosa ti dico? Dimmelo, tu che sei dentro. Io li vedo. Ma è amore vero, Mi prende degli aerei, mangi i bambini per venire qua. Oh, questo è amore vero. Qualcosa ci sarà. Io. E poi Cracciolo ha dimostrato che con il figlio si va più forte, smentisce il buon Enzo. Vabbè. Un secondo tuo giro non è più vero, ma secondo me Enzo è smentito. Guarda Bayliss, ne hanno inviata di figli, ricordi Bayliss, dai. No, il pilota quando butta giù il casco parla con se stesso. C'era anche gente che cantava, che era il povero forse Ungaro se lo ricorda, Perugini, che era un gran talento. Stefano Perugini meraviglioso, ma un talento meraviglioso. Sì. Cantava sotto il casco, il cantante mancato. Sì, verissimo. Sì, pazzesco, guarda. Carletto, ma ha ragione Ungaro quando dice che non vedremo mai un'istantanea come quella che abbiamo visto in questo mondiale, 9 vincitori diversi in stagione? Lo escludo, mi ci gioco l'ingaggio di 3 anni. Addirittura. Spero che mi diano poco se perdo, però io e Carlo saremo a posto, anche con una fee molto molto bassa, una piccola percentuale. Io no, però voi sì. No, non credo, dai. Sono state un insieme di ragazzi di cause particolari, abbiamo corso sempre sul bagnato. Però non dimentichiamoci una cosa, io adesso butto giù un discorso di questo tipo. Noi stiamo un po' maledicendo, no, criticandosi la Michelin. Ecco, io dico una cosa, allora, la Bridgestone prima di entrare ha fatto 3 anni di prove, vi ricordate? Quindi è entrato quarto, già abbastanza a posto. Sì. La Michelin non ha fatto nessuna prova da 9 anni, ha provato giusto con i collaudatori, perché è sempre piovuto l'anno scorso quando c'è prova dal lunedì. Sono andato a vedere le statistiche. Una sola caduta di differenza. Io ho visto, bravo, 70-69, bravissimo, attenzione. Ce ne sono state 14 in Olanda con l'acqua, sì, quindi... tra l'altro, che hanno anche pesato. Quindi sai cos'era? Era che ogni volta lo sviluppo andava bene, una volta la Yamaha, una volta la Honda, una volta la Ducati, per ovvi motivi, e i piloti si lamentavano. Quindi è stata presa un po'... Poi alla fine, ragazzi, le statistiche sono quelle. no. Non è che ce le possiamo mangiare. Non c'è dubbio. Beh. Allora, ragazzi, ultimo giro di risposte. E riguarda, abbiamo un minuto e mezzo, Valentino Rossi. Occasione perduta per lui in questa stagione? Forse l'ultima occasione perduta per lui in questa stagione? Io direi che no. Ungaro non risponde. No. Ungaro, rispondi pure te che poi vado io dopo. Secondo me il Valentino di quest'anno è forse uno dei migliori. È stato molto sfigato, Mugello in primis, e ha commesso lui degli errori anche di strategia, il non rientro ai box, ti ricordi, quando doveva farlo. E quindi ha fatto questi errori che in passato non faceva. Però le altre gare, quando ha vinto, lo ha fatto in un modo schiacciante. Quindi Valentino è ancora lì. Secondo me non è quest'anno il treno, semmai, che ha perso, ma è quello dell'anno scorso. Carlo? Abbastanza d'accordo. Io penso che Valentino sarà sempre lì. Sì. Valentino, la sua cara identità non è quella. La carriera di Valentino è 24 anni, te lo dico io, perché quest'anno, come diceva Ungaro, era più veloce di tutti. Certo. Lui c'è ancora sullo stomaco, non ha digerito. Ha fame. Quello che è successo la scorsa stagione, ha fame. Questa è la sua Disneyland. Esatto. Si diverte, ha messo in piedi tutta questa ambaradan della VR46 che sfocerà nel 2019 con la 500, con la MotoGP, fidatevi, che è già in corso, che gliela daranno. Bella quindi notizia. Il suo team sarà Moto3, Moto2, MotoGP con lui general manager, perché poi nel 2019 insomma, mi sembra che probabilmente sia abbastanza. Esatto. Però ci fa divertire ancora, prossimo anno ricordatevi, sicuro. Grazie Carletto. Ciao, grazie Carlo. Ciao, grazie. E io ringrazio anche Roberto Ungaro, The Voice, che ovviamente ritroveremo spesso, nonostante il mondiale sia finito, perché adesso c'è un lungo inverno da vivere in attesa della prossima stagione. Se c'è da parlare di due moto, sono qua. E sarai sempre qua quando c'è da parlare di due ruote. Grazie, Carlo. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, Roberto Ungaro, Giorgio De Luca, Alvise Falzone in redazione, a Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2. Have a nice day.